Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Una sera la finestra era aperta e lei lì davanti era stata a guardare l'estibudois, lo scaccino che tagliava i bossi. D'improvviso sentì suonare l'ave. Allora si intenerì, si sentì tutta molle e abbandonata come una piuma d'uccello volteggiante nella tempesta. Senza averne coscienza, si avviò verso la chiesa, disposta a qualsiasi devozione pur di assorbirvi l'anima, pur di annullarvi dentro l'intera esistenza. Incontrò sulla piazza l'estibudois che stava rientrando. Per non perdere neppure un attimo del suo tempo prezioso, quello preferiva interrompere il proprio lavoro e poi riprenderlo, così che sovrintendeva l'ave secondo i propri comodi. Del resto il suono anticipato serviva ad annunciare ai ragazzi l'ora del catechismo. Ce n'era già qualcuno dei ragazzi, giocavano alle biglie sul lastricato del cimitero. «Dov'è il curato?» domandò la signora Bovary a un ragazzo che si divertiva a scuotere l'arganello nel foro troppo largo. «Adesso viene!» rispose quello. Infatti la porta della canonica cigolò, l'abate Bournisien apparve. In una gran confusione i piccoli scapparono tutti all'interno della chiesa. «Delinquenti!» borbottò il prete. «Sempre gli stessi!» E raccattando un catechismo a brandelli che aveva urtato con il piede aggiunse: «Non hanno proprio rispetto per nulla!» Ma poi si avvide della presenza della signora Bovary. «Scusatemi, non vi avevo mica riconosciuta. Come state?» «Male, molto male. Soffro», rispose Emma. «Oh, se è per questo anch'io, con questi primi caldi, vero? Ci si sente incredibilmente spossati. Ma cosa volete, siamo nati per soffrire, come appunto dice San Paolo. Ma il signor Bovary che cosa ne pensa?» «Lui», disse lei sprezzante. «Come? Non vi ha ordinato qualcosa?» Il brav'uomo era veramente stupito. «Oh, non dei rimedi di questo mondo ho bisogno io». Ma il curato dava ogni tanto un'occhiata in chiesa. I ragazzi inginocchiati continuavano a darsi spallate e crollavano a terra come castelli di carte da gioco. «Vorrei sapere», disse ancora lei. «Aspetta, aspetta, Riboudé! Aspetta che vengo io a staccarti gli orecchi, delinquente che non sei altro!» attaccò a gridare il prete con voce traboccante di collera. E con un gran balzo si precipitò in chiesa. «Via, i contadini non son proprio da compiangere», disse quando fu di nuovo accanto a Emma, spiegando il suo largo fazzoletto di cotone e ficcandosene una cocca tra i denti. «Non soltanto loro», replicò lei. «Ah, certo, gli operai di città, ad esempio». «Non soltanto loro». «Scusatemi, in città ho conosciuto certe povere madri di famiglia, donne virtuose, vi assicuro, vere sante, alle quali mancava persino il pane». «Ma quelle», replicò Emma, e gli angoli della sua bocca si piegarono mentre parlava. «Signor curato, ma quelle che hanno il pane e non hanno invece fuoco d'inverno», disse il prete. «Oh, cosa importa? O come sarebbe a dire cosa importa? Mi pare che quando si è ben scaldati, ben nutriti, perché dopo tutto...» «Oddio mio, Dio mio!» sospirava lei. «Ma davvero non vi sentite bene?» disse il prete. Le si avvicinò con aria inquieta. «Sarà la digestione, è la digestione, senza dubbio. Dovete tornare a casa, signora Bovary, mandar giù un poco di tè, vi rimetterà in forze. Oppure, ecco, un bel bicchierone d'acqua con lo zucchero». «E perché?» Lei pareva svegliarsi da un sogno. «Ma perché vi passavate la mano sulla fronte? Credevo che vi avesse preso uno stordimento». «Ma mi stavate chiedendo qualcosa? E cosa di preciso? Scusatemi, è andato via di mente». «Io? Nulla, nulla», ripeteva Emma. Girava gli occhi intorno, ma poi li riportò sul vecchio in sottana. Si fronteggiavano, guardandosi, senza parlare. «Allora, signora Bovary», disse alla fine quello, «vi chiedo di nuovo scusa, ma il dovere prima di tutto, sapete, bisogna che mi occupi dei miei delinquenti. Statemi bene, signora, e i miei rispetti al vostro signor marito. Ed entrò in chiesa, cominciando a far genuflessioni sin dalla porta. Emma girò sui tacchi tutta rigida, come una statua su un perno, e prese la via di casa. La luce calava poco a poco nella finestra, un biancore vagamente oscillante. I mobili parevano più fermi ai loro posti, si perdevano nell'ombra come in un oceano tenebroso. Il camino era spento, la pendola continuava a battere, e lei non riusciva ad accettare una simile calma delle cose. Com'era possibile quando lei era tanto agitata? Ma tra la finestra e il tavolino da lavoro, la piccola Bert era là. Esisteva, traballando sulle sue scarpine di maglia, tentando di avvicinarsi alla madre per tirarle i nastri del grembiule. «Lasciami in pace!» le disse e la scostò con la mano. La piccola tornò subito all'assalto, avvicinandosi sempre più. Fu contro i suoi ginocchi, vi si appoggiò con le braccine, sollevò verso di lei i grandi occhi turchini. Un filo di saliva pura le colava dal labbro sulla seta del grembiulino. «T'ho detto di lasciarmi in pace!» ripeté la giovane donna furiosa. La sua faccia spaventò la bambina, che cominciò a gridare. «Ma insomma, mi vuoi lasciare in pace una buona volta?» Si mise a gridare anche lei e la respinse con il gomito. Bert andò a cadere contro il cassettone, batté sulla patera di rame, si tagliò la guancia, ne uscì sangue. La signora Bovary si precipitò a tirarla su, ruppe il cordone del campanello, chiamò la serva con tutte le sue forze e cominciava a maledirsi quando fece la sua apparizione Charles. Rincasava, era l'ora della cena. «Dalle un'occhiata, caro, per favore», disse Emma allora, e la sua voce suonò tranquilla. «Stava giocando, è caduta e si è ferita». Charles la rassicurò. «Nulla di grave». Andò a cercare una pomata. La signora Bovary non scese in sala. Volle restare sola a badare alla sua bambina. Allora, guardandola dormire, sentì sciogliersi a poco l'ultimo residuo di inquietudine. Finì per giudicarsi una vera sciocca. Era stata buona, troppo buona a prendersela tanto prima per una cosetta da nulla. Bert si era già dimenticata i suoi pianti. Il suo respiro ora sollevava insensibilmente la coperta di cotone. Ma grosse lacrime indugiavano all'angolo delle palpebre socchiuse, tra le ciglia si intravedevano due pupille livide, infossate. Il cerotto appiccicato sulla guancia tirava tutta la pelle di sbieco. «Strano, ma quant'è brutta!» pensava Emma. Quando Charles alle 11 di sera rientrò a casa dalla farmacia, dove aveva riportato dopo cena il resto della pomata, trovò la moglie in piedi accanto alla culla. «Ma te l'ho assicurato, non è nulla!» disse e la baciò sulla fronte. «Non tormentarti così, poverina, e in questo modo finirai per ammalarti tu!» Aveva indugiato abbastanza dal farmacista. Sebbene lui non si fosse mostrato molto emozionato, il signor Omé si era sforzato di confortarlo, di risollevargli il morale. Allora il discorso era caduto sui tanti pericoli che minacciano l'infanzia e sulla distrazione della servitù. Charles aveva tentato a varie riprese di interrompere quella conversazione. «Avrei da dirle una parola», aveva bisbigliato al giovane di studio che lo precedeva mentre scendevano le scale. «Che sospetti qualcosa», si era chiesto Léon. Il cuore gli batteva forte, la sua testa si perdeva in congetture. Alla fine Charles aveva chiuso la porta e lo aveva pregato di informarsi personalmente a Rouen sul prezzo corrente per un bel daguerrotipo. Una sorpresa sentimentale che voleva fare alla moglie, una delicata attenzione, il suo proprio ritratto in abito scuro. Ma prima intendeva sapere come regolarsi. Sperava che l'assumere informazioni non disturbasse troppo il signor Léon, dato che normalmente andava una volta alla settimana in città. E a che scopo ci andava? Omè supponeva che ci fosse sotto qualche pasticcio da giovanotto, un intrigo, ma si ingannava. Léon non coltivava nessun amoretto, anzi, era più triste del solito. Léon era stanco di quella sua passione senza approdo e poi cominciava a provare quello sfinimento che causa la ripetizione della stessa vita in assenza di un interesse che la diriga, di una speranza che la sostenga. Era talmente annoiato di Yonville e dei yonvillesi che la semplice vista di certe persone e di certe case bastava a far traboccare la sua irritazione. Anche il farmacista, per quanto fosse un bravo uomo, gli diventò insopportabile. Tuttavia, la prospettiva di una nuova sistemazione lo atterriva almeno quanto lo attirava. Quell'apprensione degenerò presto in impazienza e Parigi allora cominciò a far risuonare per lui da lontano la fanfara dei suoi balli mascherati, il riso delle sue sartine. Doveva sì o no portare a termine gli studi di legge? E allora perché non partiva? Chi glielo impediva? La cosa più difficile era strappare il consenso materno, eppure nulla poteva essere più ragionevole. Persino il suo principale lo incoraggiava a frequentare un altro studio per poter fare una migliore pratica. Cercando una via di mezzo, Léon si informò sull'eventualità di sistemarsi in sottordine presso qualche notaio di Rouen. Non ne trovò. Allora scrisse una lunga lettera particolareggiata alla madre, esponendole i motivi che consigliavano un suo immediato trasferimento a Parigi. E la madre acconsentì. Lui non si dette fretta. Continuò a rinviare il gran momento di settimana in settimana. Si decise soltanto a una seconda lettera della madre, che lo sollecitava a partire se desiderava dare gli esami prima di andare in vacanza. Così arrivò davvero il gran momento degli addii. La signora Homais pianse, Justin singhiozzava. Homais, da uomo forte, dissimulò la propria commozione e voleva portare con le sue mani il cappotto dell'amico sino al cancello del notaio che avrebbe accompagnato Léon a Rouen in carrozza. Il giovane uomo aveva appena il tempo di salutare i Bovary. Quando fu in cima alle scale, dovette fermarsi, tanto gli mancava il fiato. Al suo ingresso la signora Bovary si alzò di scatto. «Sono ancora qui», disse Léon. «Ne ero sicura». Lei si morse le labbra. Un fiotto di sangue le corse sotto la pelle, colorandola di rosa dalla radice dei capelli al collarino. Restò diritta, con le spalle appoggiate contro il legno della parete. «Il signor Bovary non c'è?» disse ancora lui. «Non c'è». E lei lo ripeté. «Non c'è». Poi silenzio. Si guardarono. I loro pensieri, confusi nella stessa angoscia, si premevano strettamente come due petti palpitanti. «Vorrei dare un bacino a Bert», disse alla fine Léon. Emma scese qualche scalino e chiamò Félicité. Lui, in fretta, dette un'occhiata tutto intorno, a pareti, scaffali, caminetto. Pareva voler penetrare ogni cosa, portarsi via ogni cosa. Ma lei rientrò e la serva portò Bert, che trascinava all'estremità di uno spago un mulino a vento capovolto. Léon la baciò più volte sul collo. «Addio, bamberottola! Addio, cara piccina, addio!» E la riconsegnò alla madre. «Portala via», disse la madre alla serva. Restarono di nuovo soli. La signora Bovary s'era girata, teneva la faccia appoggiata a un vetro. Léon aveva il suo berretto in mano e si colpiva la coscia a piccoli colpi. «Tra poco pioverà», disse Emma. «Ho il cappotto», disse lui. «Ah!» Lei tornò a girarsi, con il mento basso e la fronte in avanti. La luce scivolava sulla sua faccia come su un marmo sino all'arco delle sopracciglia. Non si poteva indovinare cosa guardasse fuori, cosa pensasse dentro. «E allora, addio!» sospirò lui. Lei tirò sulla testa bruscamente. «Sì, addio! Andate!» Avanzarono uno verso l'altro, lui le tese la mano. Lei esitò un attimo. «All'inglese, dunque», disse poi, abbandonandogli la mano e sforzandosi intanto di ridere. Léon la sentì tra le dita. Gli pareva che la sostanza di tutto il suo essere si raccogliesse entro quel palmo umido. Poi schiuse la mano. I loro occhi si incontrarono ancora e lui scomparve. Thank you. Il giorno dopo fu tutto a lutto per Emma. Come al ritorno dalla Vaubyessard, con quelle quadriglie che le turbinavano nella testa, lei provava una malinconia atroce, una torbida disperazione. Léon le riappariva più grande, più bello, più dolce, più vago. Sebbene fosse separato da lei, non l'aveva mai abbandonata. Era là, e i muri della casa parevano conservarne l'ombra. Lei non sapeva staccare gli occhi da quel tappeto su cui lui aveva camminato, da quelle sedie vuote su cui lui si era seduto. Il fiume continuava a scorrere, spingeva sempre le sue brevi onde contro la sponda sdrucciolevole. Loro due lo avevano costeggiato tante volte insieme, ascoltando lo stesso mormorio d'acqua sui ciottoli muscosi. E che bel sole vi avevano goduto! Che pomeriggi d'incanto avevano passato soli, all'ombra, nel fondo del giardino. Lui leggeva ad alta voce, la testa nuda, sedeva su un mucchio di rami secchi. Il vento fresco della prateria faceva tremolare le pagine del libro e i fiori del pergolato. Ah, lui se n'era andato. Il solo interesse della sua vita, la sola speranza possibile di felicità. Perché mai lei non l'aveva trattenuto con tutte e due le mani, in ginocchio, quando lui aveva manifestato l'intenzione di scappar via? Perché mai non lo aveva amato come avrebbe potuto e dovuto? Lei si malediceva. Aveva sete delle labbra di Léon. La prese un gran desiderio di correre a raggiungerlo, di buttarglisi tra le braccia, di gridargli in faccia «Eccomi, sono tua, tua!» Ma solo all'idea delle difficoltà che avrebbe presentato un'impresa del genere, Emma si perdeva d'animo e i suoi desideri si esasperavano del rimpianto stesso della rinuncia. Da allora, il ricordo di Léon fu come il centro della sua noia. Vi scintillava più vivo di quanto possa scintillare in una steppa della Russia un fuoco lasciato dai viaggiatori sulla neve. Lei si precipitava verso quel riverbero, vi si rannicchiava vicino, smuoveva delicatamente le braccia perché non si spegnessero, andava cercando intorno quanto potesse rianimarlo, prendeva tutto, adoperava tutto per riscaldare la propria tristezza, le reminiscenze più remote come le occasioni più immediate, quel che provava come quel che immaginava, i voluttuosi desideri che erano destinati a disperdersi come i disegni di felicità che si schiantavano al vento al pari di rami morti, la sterile virtù, le speranze cadute, lo strame dell'esistenza domestica. Tuttavia, le fiamme finirono per quietarsi, sia che la provvista venisse a mancare, sia che, al contrario, fosse troppa la legna buttata sul fuoco. L'amore a poco fu spento dall'assenza. Il rimpianto a poco fu soffocato dall'abitudine. Quel bagliore d'incendio che imporporava il suo pallido cielo fu coperto da ombre sempre più spesse, gradatamente dileguò. Nell'intorpidimento della coscienza, lei arrivò a prendere la ripugnanza verso il marito per l'aspirazione verso l'amato, il bruciore dell'odio per il calore della tenerezza. Ma poiché l'uragano continuava a imperversare e la passione si consumò sino alle ceneri e non venne nessun aiuto e non apparve nessuna luce, così fu notte completa da ogni parte per lei. Lei restò perduta nel gelo che la penetrava. Ricominciarono i giorni terribili di Toast e adesso lei si riteneva ancora più infelice. Aveva l'esperienza del dolore, aveva la certezza che non avrebbe mai finito di soffrire. Era tutta pallida, livida come un cencio lavato. La pelle del naso le si stirava verso le narici e i suoi occhi ti guardavano in modo vago. Si scoprì tre capelli grigi sulle tempie e allora cominciò a parlare di vecchiaia. Spesso era salita da capogiri. Un giorno sputò persino sangue e, poiché Charles era impressionato e lasciava apparire la sua inquietudine, disse «Oh, cosa importa?». Charles andò a rifugiarsi nel suo gabinetto. Si mise a piangere con i gomiti sul tavolo, seduto nella sua scranna da ufficio, sotto la testa frenologica. Thank you.